Mango Tart legge Manacled di Sen Ling Yu. Capitolo 9. Malfoy non le parlò più per il resto dell'ora. Estrasse un libro dal mantello e si mise a leggerlo, apparentemente insensibile al freddo pungente. Hermione chiuse gli occhi per diversi minuti e cercò di forzare il suo cuore a non battere semplicemente fissando il cielo. Lo avrebbe superato, non le importava quanto ci sarebbe voluto. I giorni iniziarono a confondersi. Malfoy si presentava ogni giorno, subito dopo pranzo, e la conduceva fuori in veranda. Una volta lì, di solito la ignorava. Leggeva il Profeta o qualche altro libro. Hermione si aggirava sulla veranda, cercando di trovare il coraggio di fare una passeggiata. Riusciva a scendere i gradini di marmo, ma si bloccava prima di raggiungere la ghiaia. A differenza del corridoio, quello non riusciva a superarlo. Era una linea che era incapace di attraversare. Le parti razionali del suo cervello si spegnevano di colpo. Così si sedeva sui gradini, raccoglieva la ghiaia tra le mani e lanciava le pietre, una alla volta, il più lontano possibile, o le disponeva in immagini o rune. Non c'era altro da fare. Malfoy non le parlava mai e per questo lei non poteva parlargli. Non che lo volesse, ma l'indignazione che richiedeva il dover chiedere il permesso le dava comunque fastidio. Il fatto che Malfoy non avessero bisogno di servitori significava apparentemente che non ci si aspettava che lei facesse altro che esistere. Non le fornivano assolutamente alcun mezzo per occupare se stessa. Niente libri, niente carta, nemmeno un po' di spago. Si annoiava nel Manor quasi quanto si era annoiata nella sua cella a Hogwarts, tranne per il fatto che fosse anche sorvegliata ossessivamente da un ritratto e sapesse che c'era un palazzo fuori dalla sua stanza che aspettava di essere esplorato se solo avesse trovato il coraggio di farlo. Aveva esplorato ripetutamente tutte le camere da letto lungo il suo corridoio. Aveva studiato il labirinto di siepi attraverso tutte le finestre finché non era stata quasi certa di poter trovare la strada per attraversarlo. Stava cercando di trovare il coraggio di scendere le scale ed esplorare gli altri piani. Aveva attraversato il primo piano quasi 9 volte con Malfoy, eppure non riusciva a trovare il coraggio di farlo da sola. Dopo 8 giorni, Malfoy non apparve dopo pranzo. Invece, fu la guaritrice Stroud ad entrare dalla porta nella stanza di Hermione. Rimase in silenzio a guardare la donna che materializzava un lettino da visita in mezzo al pavimento. Tutti quelli che odiava sembravano costringerla a sdraiarsi. Voldemort, Malfoy, la Stroud. Avanzò prima che la costringesse e si sedette sul bordo. «Apri la bocca», comandò la guaritrice. Lei lo fece automaticamente e la guaritrice Stroud sollevò una pozione e gliene versò una goccia in bocca. Mentre la richiudeva, Hermione diede un'occhiata al contenuto e si irrigidì. Veritaserum. Supponeva che fosse un modo per rendere efficienti i controlli medici, impedire ai soggetti di mentire. Ma non riusciva a capirne il senso. Le manette la rendevano già obbediente. La guaritrice Stroud poteva semplicemente ordinarle di dire la verità. Lei sembrò notare l'espressione sul volto di Hermione. «Semplifica le cose», disse agitando la bacchetta. «Se Lyriv ti avesse ordinato di mentire su qualcosa, saresti in conflitto. In questo modo, la tua onestà non è colpa tua». Annuì. Ora capiva il senso. «Non ancora incinta. Suppongo che fosse un po' troppo da sperare così presto». Lei quasi crollò dal sollievo, poi si ricordò che significava che Malfoy l'avrebbe presa sul tavolo per altri 5 giorni e il sollievo svanì bruscamente. «Mi guardi, signorina Granger», comandò la guaritrice. «Qualcuno le ha fatto del male da quando è qui». Hermione fissò la donna con fermezza, mentre la sua bocca rispondeva di sua spontanea volontà. «Sono stata violentata fisicamente 5 volte e mentalmente 2 volte». La guaritrice Stroud sembrava indifferente, ma un po' pensierosa. «La legimanzia è dolorosa?» «Sì». Prenderò nota. Nient'altro?» «No». «Molto bene. Questo è un sollievo. Ci sono stati problemi con alcune delle altre». Hermione sentì l'orrore strisciare su di lei come la carezza di un fantasma. «Stanno bene?» gracchiò. «Oh sì, ci siamo occupati di tutto. Alcuni uomini avevano semplicemente bisogno che gli venisse ricordato che i doni del Signore Oscuro possono essere ritirati se non vengono curati correttamente», disse la guaritrice. Non c'era traccia di compassione o senso di colpa nella sua espressione, mentre continuava a muovere la bacchetta su Hermione. Voleva allungare la mano e spezzarle il collo. Tremò mentre lottava per contenersi. La guaritrice rimane indifferente alla sua rabbia malcelata. Le lanciò un incantesimo diagnostico mirato al suo basso ventre. Nessuna lacerazione. Questo è un bene. Sarebbe stato problematico. Sarei dovuta venire prima a controllare, ma ero abbastanza occupata. Supervisionare tutto è stato più impegnativo di quanto immaginassi. Sembrava aspettarsi che lei le mostrasse comprensione. Hermione fissò l'orologio e non rispose. «La tua condizione fisica è un po' peggiorata. Esci ogni giorno?» chiese la guaritrice con un'espressione irritata. Hermione si irrigidì. Le si strinse il petto mentre cercava di respirare e rispondere alla domanda con indifferenza. «All'inizio non lo facevo, ma lei Reeve ha cominciato ad assicurarsene. Cammini? Le passeggiate sono importanti per la costituzione». «Non ci riesco». La guaritrice la fissò. «Non ci riesci?» Hermione si morse il labbro ed esitò. «Ho degli attacchi di panico. Anche solo lasciare questa stanza è difficile. Lei Reeve mi porta in veranda per un'ora, ma io non riesco. Non posso. È così...» Cominciò ad ansimare mentre cercava di descriverlo. Anche con l'aiuto del Veritaserum faticava a tradurre la paura in parole. Faticava a gestire l'ondata di rabbia e disperazione che provava per un ostacolo così irrazionale che non poteva superare da sola. Strinse le labbra, ma queste si contorsero bruscamente. Poteva sentire la pressione nelle guance e negli occhi mentre lottava per non piangere. «Interessante», disse la guaritrice, scarabocchiando qualcosa. «Potrebbe essere a causa della tua prigionia. Non mi era venuto in mente che uscire all'aperto potesse essere un problema. La pozione calmante potrebbe non bastare. Ma non posso darti un ansiolitico. Interferiscono con la gravidanza. Forse qualcosa di temporaneo, per aiutarti ad abituarti. Farò qualche ricerca». Hermione non disse nulla. «Ti sarà fornito il necessario per il ciclo», aggiunse la Stroud mentre continuava a scrivere. Le sembrò che le venisse in mente un pensiero e alzò uno sguardo interrogativo verso Hermione. «Come facevi quando eri in prigione?» «Sanguinavo e basta», disse lei. «La cella veniva tenuta pulita, ma non mi fornivano nulla». Stroud scosse debolmente la testa in segno di disapprovazione, come se avesse una qualche superiorità morale alla Umbridge nell'ambito delle cure di Hermione. «C'è altro che pensi che dovrei sapere?» le chiese. «Penso che lei sia malvagia e disumana», rispose subito Hermione. Non aveva nemmeno avuto il tempo di rendersi conto delle parole che le uscivano di bocca. Il Veritaserum le aveva semplicemente spinte fuori. L'espressione della Stroud tremolò per un secondo. «Beh, suppongo di essermela cercata. C'è qualcosa sulla tua salute che pensi che dovrei sapere?» Hermione ci pensò per un momento. «No». «Va bene, allora». La guaritrice diede un'ultima occhiata ai suoi appunti. «Oh, quasi dimenticavo. Togliti le calze». Hermione le tolse obbedientemente. Lei le guardò le gambe per un momento e poi agitò la bacchetta. Una sensazione acuta e bruciante le attraversò per diversi secondi. Sibilò debolmente, spaventata. Quando il bruciore svanì, abbassò lo sguardo e vide che le sue gambe erano di un rosso vivo e piuttosto irritate. «Un incantesimo di depilazione permanente. In tanti si sono lamentati. Uno ha cercato di metterle una pozione nel bagno, ma la strega dispettosa ha immerso la testa e ne è uscita completamente calva». La guaritrice porse Hermione un piccolo barattolo di essenza di purvincolo. «L'irritazione dovrebbe sparire in un giorno o due. Parlerò con Lei Reeve delle tue condizioni». Rimise la cartella di Hermione in una valigetta e lei scivolò giù dal lettino e rimase in piedi goffamente. tenendo le calze in una mano e il barattolo di essenza di porvincolo nell'altra. Con un colpo di bacchetta, la guaritrice Stroud fece sparire il lettino e lasciò la stanza senza un'altra parola. Malfoy arrivò mezz'ora dopo, con l'aria più arrabbiata del solito. Hermione si tirò addosso il mantello e lo seguì. Quando raggiunsero la veranda, lui la guardò con una smorfia. «Mi è stato richiesto che tu cammini per almeno mezzo miglio». Lei alzò gli occhi al cielo. «Ti manderei con un elfo domestico, ma la Stroud è preoccupata che la tua tensione cerebrale autoafflitta possa causarti delle convulsioni se ti agiti troppo». Sembrava così arrabbiato da poter rompere qualcosa. «Ora sono anche tenuta a portarti a spasso». Fissò la sua proprietà per un momento prima di aggiungere «Sei peggio di un cane». Scese come una furia ai gradini e poi si voltò, in piedi sul sentiero di ghiaia. «Vieni», disse con una voce fredda. Aveva gli occhi che lampeggiavano e le labbra strette in una linea dura mentre la guardava. Hermione lo fissò incredula. L'inferno si sarebbe congelato molto prima che la presenza di Draco Malfoy le impedisse di avere un attacco di panico. La compulsione la trascinò in avanti. Fece un respiro profondo mentre scendeva con cautela i gradini e poi, dopo un attimo di esitazione, toccò la ghiaia. Fece 4 passi verso di lui e volle quasi piangere di rabbia quando non si bloccò lungo la strada. A quanto pareva, era un freddo giorno d'inferno. Malfoy girò sui tacchi e si incamminò lungo il sentiero mentre lei lo seguiva. Probabilmente era a causa delle manette, si rese conto lungo la strada. Lui le aveva ordinato di andare e così lei era andata. Le manette la costringevano ad essere accondiscendente anche mentre veniva violentata. Le compulsioni funzionavano e apparentemente erano capaci di sopprimere i suoi attacchi di panico. Nello stesso modo in cui erano capaci di sopprimere il suo desiderio di combattere Malfoy e poi ucciderlo in modo doloroso e prolungato. Passeggiarono all'esterno del labirinto di siepi finché non lo superarono interamente e poi lui la condusse attraverso i sentieri, tra le aiuole di rose potate. Si chiese se ci fosse qualcosa nel Manor che non fosse freddo, morto e sterile. I sentieri non avevano nemmeno una pietra fuori posto. I cespugli erano stati potati meticolosamente per l'inverno. Le siepi tagliavano il cielo in muri precisi e dritti. Non si era mai interessata particolarmente ai giardini inglesi, ma quello di Malfoy Manor era forse il più orribile che avesse mai visto. Siepi, ghiaia bianca, alberi senza foglie e arbusti potati fino all'inverosimile. Immaginava che fosse meno orribile in primavera e in estate, ma nella sua forma attuale aveva visto parcheggi con un maggior appeal estetico. Anche Malfoy non sembrava incline ad apprezzare il paesaggio. Dopo aver percorso i sentieri per un'ora, li condusse di nuovo al Manor. Mentre si avvicinava, credette di vedere una tenda del piano di sopra che si muoveva. Malfoy si diresse verso la stanza di Hermione, ma piuttosto che andarsene una volta entrata, rimase a fissarla. Lei si ritrasse e trafficò con il fermaglio del mantello. Forse, se l'avesse ignorato, se ne sarebbe andato. «Letto!» comandò lui dopo un momento. Alzò lo sguardo verso di lui, spaventata, e lui sorrise maliziosamente mentre faceva un passo in avanti. «A meno che tu non preferisca farlo sul pavimento!» disse. Hermione non si mosse. Si limitò a fissarlo, stupefatta dall'orrore. Lui estrasse la bacchetta e dopo una sferzata secca e non verbale, Hermione sentì la magia di lui afferrarla e trascinarla all'indietro finché non si scontrò con il letto e vi cadde sopra. Malfoy si avvicinò con aria annoiata. C'era un debole luccichio nei suoi occhi. Lei si morse il labbro per non piagnucolare e si coprì con le braccia. Lui la fissò e poi, premendo le gambe tra le sue, si chinò su di lei. Desiderava sprofondare nel letto e soffocare lì. Voleva poter urlare, avere anche solo un briciolo della sua magia per combatterlo. «Sii obbediente, tranquilla, non opporre resistenza». Si premette il mento contro la spalla e cercò di allontanarsi da lui il più possibile. La sua mano destra premette sul materasso vicino alla sua testa e poi sentì la punta della bacchetta sotto il mento. «Guardami, sangue sporco!» comandò. Il mento si mosse da solo mentre girava la testa per guardarlo negli occhi. Erano a pochi centimetri dai suoi. Aveva le pupille contratte. Il grigio delle sue iridi sembrava una tempesta. Poi si fece strada nella sua mente. Lei sussultò per lo shock. Anche la sua legimanzia era fredda, come essere immersa in un lago ghiacciato. Faceva male. Un dolore acuto e forte. A differenza delle occasioni precedenti, non ero offuscata dal trauma o dallo shock. L'esperienza era molto più vivida. Lui si fece strada attraverso i suoi ricordi, sondando di nuovo tutti gli ammassi bloccati. Cercò di aprirsi un varco in uno finché non le strappò un lamento dalle labbra. Si mosse rapidamente, come se stesse semplicemente verificando che nessuno fosse ancora accessibile. Dopo averle controllati, si spostò nel presente. Sembrava divertito dal suo crescente odio, da quanto disperatamente volesse ucciderlo. La guardò esplorare le altre stanze e correre attraverso la proprietà per poi sedersi annoiata sui gradini della veranda. La guardò leggere il profeta, il suo attacco di panico. Esaminò i suoi ripetuti sforzi di ricordare i dettagli della morte di Silente e come non riuscisse a ricordare qualcosa sul suo braccio. Quel dettaglio accese il suo interesse. Cercò di trovare l'informazione. Ma dovunque Hermione avesse nascosto i dettagli nella sua mente, non poté farlo. Sentì la sua irritazione mentre finalmente passava al suo appuntamento con la Stroud, alla loro passeggiata attraverso la tenuta e a quanto profondamente lei detestasse i giardini. Quando raggiunse il suo orrore, dopo averle ordinato di mettersi a letto, finalmente si ritirò. Sogghignò. «Stai tranquilla, sangue sporco. Non ho alcun particolare desiderio di toccarti. Trovo offensiva la tua sola esistenza nel mio manor». «Il sentimento è decisamente reciproco», disse Hermione con voce secca. Non era una risposta particolarmente brillante. Le pulsava ancora la testa. Era come se Malfoy avesse inserito tutta la sua mente nella sua e questo l'avesse ferita internamente. Lui si raddrizzò e la guardò come se si aspettasse che dicesse qualcos'altro. Lo fissò. «Hai davvero ucciso Silente?» Lui sorrise e si appoggiò a una colonna del letto, incrociando le braccia e inclinando la testa di lato. «Hai dimenticato anche questo? C'è qualcosa di utile che ricordi? O di solito dimentichi tutto quello che non hai preso da un libro di testo?» Si guardò le unghie per un momento e poi le lisciò contro la veste in modo annoiato. «Suppongo che fosse l'unica cosa che eri in grado di fare. Non hai nemmeno combattuto durante la guerra, vero? Di certo io non ti ho mai visto. Non eri mai in giro con Potter e Weasley. Ti sei nascosta. Passavi tutto il tempo nelle infermerie, agitando inutilmente la bacchetta e salvando persone che sarebbero state meglio da morte». Alle sue parole, Hermione sentì il sangue che le saliva alla testa, così bruscamente che la stanza le tremò davanti agli occhi. Rantolò, come se fosse stata colpita da una palla da baseball. Tutte le volte che aveva guarito Ron, Bill, Charlie, George e Fred, Tonks, Remus, Ginny, Anna, Angelina, Katie, li aveva salvati per la fine della guerra. Salvati solo per essere torturati a morte. Salvate per essere schiavizzate e violentate. Si strinse le mani sulla bocca e premette le dita contro le labbra fino a sentire il contorno dei denti. Tutto il suo corpo tremò mentre cercava di non singhiozzare. Un lamento ovattato le sfuggì tra le dita. Sentì gli occhi pungere un momento prima che il volto di Malfoy si offuscasse per le lacrime. Rotolò su un fianco e si raggomitolò in una palla. «Visto che sei così curiosa di saperlo, il Signore Oscuro mi chiese personalmente di uccidere Albus Silente durante il sesto anno. Così, un venerdì mattina, quando quell'idiota mi passò accanto nei corridoi, lo maledissi dritto nella schiena con una Avada Kedavra. Si era fermato a chiacchierare con alcuni del primo anno sui sorbetti al limone o qualche altro argomento altrettanto stupido. fu abbastanza imprudente da non proteggersi. Ma i Grifondoro sono fatti così. Non si aspettano mai che qualcuno possa scegliere di assassinarli in pieno giorno. Sono abbastanza sicuro che sapesse anche che avrei cercato di ucciderlo, ma mi ha comunque voltato le spalle. Forse presumeva che mi mancasse il coraggio. Sbuffò debolmente in segno di sdegno prima di sospirare. Questo è l'unico vantaggio di colpire qualcuno alla schiena. Si perde quella frazione di secondo di realizzazione prima di morire. Hermione si morse il labbro mentre ascoltava la recita strascicata di Malfoy. Si era aspettata, se mai avesse posto la domanda, che lui sarebbe stato presuntuoso al riguardo, ma in qualche modo la scioccava comunque sentirlo. «Suppongo che il tuo padrone sia stato abbastanza soddisfatto di te», disse lei senza guardarlo. «Lo era, soprattutto dopo che gli ho portato la bacchetta del vecchio pazzo. Quella sera cenò con me e mia madre, proprio qui, in questo manor, e mi dichiarò il suo protetto». Il suo tono sembrava vagamente vuoto. Hermione sbirciò sopra la spalla. Non la stava guardando. Aveva gli occhi bloccati sulla finestra e sembrava quasi malinconico, pensieroso, come se la sua mente fosse andata altrove. Ritornò a se stesso bruscamente e sorrise seccamente verso di lei. «Ci sono altri dettagli che vuoi che ti fornisca?» Inarcò un sopracciglio, l'espressione meccanica. «No», disse lei distogliendo gli occhi dal suo viso. «Era tutto quello che volevo sapere». «Bene». Lui si raddrizzò la veste e si voltò per uscire. «Il mondo esterno mi chiama. Cerca di non avere una crisi in mia assenza, sangue sporco».